coppia. Miti e verità dello sport di Dario Ricci. Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della Basilica, ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori, è caduto una pareggio. È il 4 maggio del 1949, quando l'aereo che trasporta il grande Torino, di rientro da una prestigiosa amichevole a Lisbona contro il Benfica, si schianta sulla collina di Superga. 31 le vittime in una tragedia che cancella una delle squadre più forti della storia del calcio. Di Superga e di quell'ultima partita che il Torino di Valentino Mazzola, Loic, Bacigalupo giocò in Portogallo, vi abbiamo già raccontato qui a Olimpia. Ma oggi gli dei dello sport ci chiedono di raccontarvi di un'altra amicizia che da quella tragedia nacque e che sopravvive ancora oggi, più forte del tempo e, se possibile, della morte. Eccoli, De Cicco, Di Stefano, La Bruna, Collo. Loustau, la più celebre ala sudamericana. Iacono, piccolo, grande, mediano. Carrizo, Maghi e Soria, il trio di difesa. Rossi, centro sostegno della nazionale argentina. Sono venuti spontaneamente e gratuitamente per un incontro a favore del Torino simbolo. È il 26 maggio del 1949. Sul prato del comunale di Torino scende in campo il River Plate di Buenos Aires, una delle compagini simbolo del football sudamericano. A spingere il fenomenale Alfredo Di Stefano e i suoi compagni fino in Piemonte è stata proprio l'emozione e lo sbigottimento per la tragedia di Superga di pochi giorni prima, la cui eco ha fatto il giro del mondo, come ricorda Domenico Beccaria, presidente e fondatore del Museo del Grande Torino e della Leggenda Grande. Presidente del River, Antonio Vespucci Oliverti, dichiara origini italiane, rimane colpito da questa tragedia immensa e decide di fare qualcosa di tangibile per aiutare il Torino, per aiutare le famiglie degli scomparsi. E decide di venire in Italia per giocare una partita amichevole qua a Torino. A Torino viene messa in piedi una selezione che si chiama Torino Simbolo, che raccoglie tutti i migliori giocatori italiani e stranieri che in quel momento militavano nel campionato di calcio di Serie A, e dal canto suo il River viene in Italia con la sua prima squadra. Il campionato è in corso, ma Liberti decide di lasciare le riserve a giocare la partita di campionato in Argentina e porta qua la squadra titolare. In quel pomeriggio malinconia e attesa si mescolano sugli spalti del comunale. Sfilano 31 squadre di ragazzi delle elementari, 31 furono i caduti. Gli argentini tengono per i lembi la nostra bandiera. La commozione del pubblico è mescolata di giusta aspettativa. L'ambasciatore Ocampo Jiménez abbraccia Novo. Campioni straordinari, quelli che allora vestivano la maglia bianca con la striscia diagonale rossa del River, alcuni dei quali quasi sfiorarono anche quella del Torino, come ricorda Beccaria. Alfredo Di Stefano era sicuramente uno degli esponenti di punta, ma non era comunque l'unico di tanti campionissimi, perché comunque la River contava Muñoz, La Bruna, Loustau, Carrizo, insomma tutta una serie di giocatori di primissimo livello. Tant'è che proprio durante quell'amichevole lì il presidente Liberti offre a Ferruccio Novo un aiuto tangibile anche dal punto di vista sportivo, non solo economico, decidendo di lasciargli un giocatore, e Novo vorrebbe Di Stefano. Il problema è che lui non può regalare Di Stefano al Torino, gli dice se vuoi te lo vendo. Il problema è che Novo, con la squadra distrutta, non può permettersi di acquistare Di Stefano, al che molto più modestamente gli offrono La Bruna, e incredibilmente Novo, da gran conoscitore di calcio qual è, fa un errore madornale, respinge al mittente l'offerta, dice no grazie, La Bruna non mi interessa. Giova ricordare a tutti che La Bruna è il maggior goleador di tutta la storia del calcio argentino, ha giocato praticamente tutta la carriera con il River, 500 e qualche partita, ha segnato oltre 300 gol ed è considerato un po' il pulici non solo del River, ma proprio di tutta l'Argentina. Per dire della sua importanza per i tifosi del River, Basti dire che oltre agli scudetti vinti come giocatore, è stato l'uomo che come allenatore ha rotto un digiuno di vittorie durato 18 anni e i tifosi del River sono così affezionati, erano, perché la Bruna è già mancata da qualche anno, e la Bruna, i tifosi del River hanno deciso che il dia della Incia del River, cioè il giorno della tifoseria del River, è il 28 settembre, che è il compleanno di Angela Mediola Bruna. In campo Di Stefano, la Bruna e compagnia incantano spettatori, avversari e anche cronisti. Comincia questa luminosa prova di come il gioco del calcio possa diventare un'arte. È una tecnica che non conoscevamo. Le nostre bravure si limitano a tacco e punta. Questi si servono anche della suola. Moltiplicano le possibilità di manovra. I nostri lavorano più all'osso, tutto in rendimento immediato. Gara amichevole, certo, ma fino a un certo punto. Il River non ci sta a lasciare la vittoria al Torino simbolo. Sono prontissimi. Niers ha appena segnato e loro pareggiano con questa staffilata di La Bruna. Lousteau fa pensare a un primo ballerino, non tanto perché giochi a gambe nude, quanto per questa sua padronanza dell'equilibrio in un muoversi sincopato e ritmato. Di Stefano. Dalla scivolata alla saetta, vale! D'ora in poi, per pareggiare questo gol di Alovatti, la partita in mano del River Plate diventerà un capolavoro di stile. Gioco senza ostentazione di stile, complessivamente lento, ma con la risorsa del guizzo tempestivo. Si muovono in massa, solidali, poi hanno la zampata del gatto. L'avvicinamento diventa arrembaggio. 2-2, ma il punteggio non conta. La solidarietà è al di sopra della competizione. Grazie amici. Partite così ne vorremmo rivedere ancora davvero. Un pareggio che sancisce un'amicizia infinita, scandita da molti episodi negli anni successivi, cosa in sottolinea Beccaria. Nel 1951 il River celebra il suo 50° anniversario di nascita e il Torino simbolo, con una formazione diversa, va a trovare il River, giocano una partita al Monumental a 2 anni di distanza da quella del 49. In quell'occasione le due squadre decidono di scambiarsi la maglia, ovvero il Torino, quando non in maglia granata, utilizzava la maglia bianca con banda rossa trasversale, e il River, quando non in maglietta, camisetta bianca con la banda rossa, come dicono loro, utilizzerà una casacca granata. Tant'è che il 4 maggio del 1964, nel 15° anniversario della tragedia di Sotterga, il River gioca una partita in casa e, pur non avendo nessuna necessità di cambiare maglietta, perché giocava in casa e comunque l'avversario non aveva colori incompatibili, decide, per onorare il grande Torino nel 15° anniversario della scomparsa, di indossare comunque la maglia granata. Un'amicizia arrivata ai giorni nostri e proiettata nel futuro, spiega ancora il presidente del Museo del Grande Torino. Questi rapporti sono diventati sempre più stretti finché noi abbiamo fatto una mostra temporanea nel nostro museo per ricordare questa amicizia, e a maggio dello scorso anno loro hanno deciso, all'interno del loro museo, di aprire la vitrina dell'amistad, cioè la teca dell'amicizia, che è uno spazio decisamente importante, decisamente grande all'interno del loro museo, in cui hanno raccolto tutti i cimeli che riguardano questa amicizia che dura appunto da 66 anni ed è stata inaugurata lo scorso anno dal presidente Rodolfo D'Onofrio, dal direttore del Museo River Rodrigo Dascale, ed eravamo presenti per il Museo del Toro io e Giampaolo Mugliare, che è il nostro direttore. Che l'amicizia tra Toro e River sia ancora ben viva ce lo testimonia anche il nostro ospite, giornalista, corrispondente in Italia di ESPN, argentino di nascita che vive a Torino, Daniel Martinez. Benvenuto ad Olimpia, la città dello sport. Oh, ciao Dario, un piacere salutarti, sempre essere in contatto con te in Radio 24 è sempre un piacere, lo sai. È molto vivo, è molto forte, è di quelle amicizie che sono eterne, quelle fiammelle che non si estinguono mai. Tanto al punto che, per dare un esempio, nel 2012 si è fatta una maglietta evocativa con il colore rosso granata ed è stata la maglietta più venduta di quella settimana in Argentina, 4.041 pezzi si sono venduti in una settimana della seconda maglia, che sarebbe quella del River Plate, per dire quanto è ancora attuale questa fiamma che si è fatto amicizia il 26 maggio 1949. Di Stefano e La Bruna, che stavano allora per diventare granata. L'uruguaggio Francescoli e oggi Maxi López, che quella maglia l'hanno vestita dopo essere stati protagonisti ancora col River Plate. Legami sentimentali quindi, ma anche calcistici, quelli tra River e Toro. Certo, a pensarci, Daniel, che Di Stefano avrebbe potuto giocare col Torino. E certo, è stato molto vicino al Torino, è stato nel suo peregrinare per Colombia e per Spagna, ha avuto anche l'opportunità di star lì. La storia, ad esempio, di Antonio Vespuccio Liberti, il presidente del River, che è stato 5 volte presidente del River, che ha voluto quella partita di solidarietà e che è stato anche presidente del Torino, io non so se questo viene sottolineato qualche volta in Italia, lo è stato dal 14 enero al 18 febbraio del 1957, Antonio Vespuccio Liberti, 5 volte presidente del River, è stato presidente anche del Torino. Daniel Martinez di ESPN Italia, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a te Dario, e prima di despedirci quel ricordo fantastico, l'ultima postiglia di quella partita. I supplenti del River, perché River per venire a giocare in Torino ha dovuto giocare il campionato con i supplenti, cioè con le riserve. Bueno, il supplente del River, le riserve del River hanno vinto sul Racing in quella opportunità e hanno vinto sul Platense in una partita di andata e di ritorno, facendo sorprendere a propri estranei. Era praticamente come che l'amicizia tra il Toro e il River era invincibile e si ripercuteva anche nelle riserve che stavano giocando il campionato locale in River. Volevo farlo come chiusura e mandarti un abbraccio molto grande e ringraziarti del privilegio di stare ancora una volta in onda su Radio 24. Grazie ancora a Daniel Martinez, ora qualche istante di pausa, poi ancora insieme qui a Olimpia, miti e verità dello sport. Rocco ed io ci siamo conosciuti a Padova. A Padova Rocco era arrivato dopo esperienze di calciatore e di tecnico e aveva subito un'idea pragmatica, seria, diretta della convenienza di reagire al WM inglese. Lasciamo ora il discorso a lui perché lo ricominci sotto canali suoi, diciamo. Comincio con la mia Triestina del 48, quando abbiamo cominciato col battitore libero che si chiamava Blason, era un altro battitore libero di oggi, ma sempre un battitore libero. Blason, se non calciava la palla a 80 metri, 40 in aria e 40, non era un buon libero. Chiaro. Eccolo, però abbiamo cominciato a giocare così, perché l'anno prima la Triestina era stata retrocessa facendo il bel gioco, giocando questo famoso WM. Bisogna adeguarsi ai tempi, però adeguandosi ai tempi la Triestina è andata in Serie B. Beh, straordinarie queste due voci, Gianni Brera e Nereo Rocco, il principe dei giornalisti sportivi, ma qualsiasi definizione di fronte alla penna di Brera, l'intera personalità di Brera appare inadeguata, e Nereo Rocco, il Paron, il grandissimo allenatore del Milan, del Torino, una leggenda del calcio e dello sport italiano. Ebbene, oggi proprio di Gianni Brera e di un periodo davvero particolare della sua vita vogliamo parlare attraverso un ospite, Sergio Giuntini, che ritroviamo qui al microfono di Olimpia. Benvenuto Sergio. Grazie. storico dello sport, membro della Società Italiana di Storia dello Sport e autore del libro di cui oggi parliamo, Il Partigiano Gianni, edito da Sedizioni. Gianni Brera, L'Ossola è il diario storico della seconda divisione Garibaldi Redi. Perché parliamo oggi di questo libro? Perché Brera, prima di essere stato o mentre stava diventando anche grande giornalista e poi cantore dello sport italiano e non solo, è stato e ha vissuto anche un'importante parentesi da partigiano, e Sergio Giuntini ha voluto dedicare proprio questo saggio, questo studio, che è anche però un romanzo, ci spiegherà anche perché, a Gianni Brera partigiano. Ecco Sergio, in quale momento della vita di Brera avviene questa esperienza sicuramente molto significativa nella sua biografia? Questa esperienza è un'esperienza che ha accomunato molti italiani nel momento drammatico che va dal 25 luglio all'8 settembre 43, lo sbandamento generale dell'esercito, un paese un po', come dire, in balia di se stesso. Brera era militare, era paracadutista della Folgore, era caporedattore della rivista della Folgore, e dopo l'8 settembre torna a Pavia, nella sua città, e commette un errore di cui si pentirà a lungo, ovvero accettò di dirigere per pochissimi numeri, per 4 numeri, il Popolo Repubblicano di Pavia, ovvero il trisettimanale della Federazione del Nuovo Partito Fascista nella Repubblica Sociale Italiana di Pavia. Dopo 4 numeri darà le dimissioni, probabilmente perché si era accorto che non era il giornale che avrebbe voluto, avrebbe dovuto dirigere. Tanto ma, per usare un eufemismo, diciamo così. Certamente. E però questa fu una macchia che lo segnò molto anche da un punto di vista personale, umano. Visse un travaglio interiore profondo che cercò sicuramente di espiare accettando con la Costituzione della Repubblica dell'Ossola dal settembre del 44 di uscire clandestinamente dall'Italia, riparare temporaneamente in Svizzera e poi da lì nel settembre del 44 entrare nelle file della Resistenza all'interno della Repubblica dell'Ossola. Da qui il partigiano Gianni, no? L'esperienza partigiana di Gianni Brera. Dal punto di vista strettamente militare, che partigiano fu Brera? Allora, Brera arriva nella Repubblica dell'Ossola con una discreta formazione militare, perché lui era stato ufficiale di complemento in fanteria e poi era passato nella Folgore ai paracadutisti, quindi aveva maturato una certa esperienza militare, e questa sua esperienza verrà utilizzata nel periodo resistenziale perché diventerà aiutante maggiore dell'83esima brigata Comoli, che era una brigata che faceva capo alla seconda divisione d'assalto Garibaldi, intitolata un partigiano Redi, che operava nell'Ossola. Questo dal punto di vista militare, ma dicevamo Brera sarà anche scrittore e diciamo redattore del diario, come giustamente sottolinei, e diario certo, che tu hai recuperato, della seconda divisione Garibaldi Redi. Tra l'altro, per chi non l'abbia mai letto, oltre all'invito di tuffarsi nei testi di Gianni Brera, vale la pena ricordare che oltretutto e soprattutto Brera fu uno straordinario estensore delle capacità della lingua italiana. Mi vengono in mente due parole su tutte, che oggi, delle quali oggi noi forse non riusciremo a trovare sinonimo: Padania e centrocampista, no? Due parole di indirizzo completamente diverso, ma che senza Brera non avremmo a nostra disposizione. Ecco, scrittore e redattore di questo diario, c'è già il Brera che poi apprezzeremo ai massimi livelli? Allora, tutti i reparti partigiani dal febbraio del 44 dovevano redigere un proprio diario storico nel quale segnalare le operazioni svolte, le perdite avute, i materiali recuperati. Alla fine della guerra, nell'aprile del 45, la divisione Garibaldi Redi affida a Gianni Brera il compito di redigere il diario di tutta la divisione, quindi un lavoro anche notevole che lui compie tra il maggio e il giugno del 45. Questa raccolta di materiali, che poteva essere molto, come dire, grigia, con pochi spunti interessanti, invece diventa, con Brera, che già allora aveva, come dire, aveva messo in luce, insomma, le sue qualità di scrittura, diventa assai leggibile, e i linguisti, gli studiosi, insomma, del linguaggio breriano colgono già in questo lavoro, che può essere considerata quasi la sua opera prima, quei tratti linguistici, quella creatività linguistica che poi lo caratterizzerà da giornalista sportivo. C'è qualche bagliore sportivo in questo linguaggio, in Nuce? È già un Brera che si sta avvicinando al mondo dello sport, che già manifesta questa passione, oppure è ancora un proto giornalista? Volendo si colgono alcune metafore sportive, alcuni caratteri che poi soprattutto lui rielaborerà nella sua nota teoria calcistica Catenaccio e Contropiede, perché lui insiste sul fatto, redigendo il diario, che la lotta partigiana deve essere una lotta mordi e fuggi, insomma, in cui il più debole deve sfruttare le sue risorse e quindi ritirarsi di fronte a un nemico che ti è superiore per forze, per armamento, e colpirlo quasi in contropiede, come poi era nella sua teoria calcistica. Questo schema tattico diventa anche una chiave di lettura della storia d'Italia, già a partire da quei giorni drammatici che Brera vive come partigiano e come cronista, no? Sì. Questo, come dire, tra le righe lo si legge chiaramente. Sapendo poi quale fu il suo futuro, quindi rileggendo questo diario alla luce della sua carriera giornalistico-sportiva, delle sue teorie legate alla tattica, alla strategia del calcio, questo si nota in modo chiaro. Poi inizia anche a usare quei suoi neologismi che lo renderanno famoso. Per esempio, un termine che ricorre continuamente nel libro a proposito delle ritirate strategiche, chiamiamole così, delle formazioni partigiane, è la parola fugone. Per lui la fuga è una fuga proprio precipitosa, una fuga con le gambe che anticipano il resto del corpo. Esatto. Il fugone è proprio il termine più ricorrente in questo diario. E allora, il partigiano Gianni Brera, L'Ossola e il diario storico della seconda divisione Garibaldi Redi, edito da Sedizioni, per la firma di Sergio Giuntini. Davvero una lettura che mi sento di consigliarvi su suggerimento degli Idee dello Sport. Sergio Giuntini, grazie per essere stato oggi nostro ospite d'Olimpia. Già te lo dico, ti capiterà spesso di ritornare a questi microfoni, mi raccomando. Grazie a voi. Anche per l'appuntamento di oggi con Olimpia è tutto. Torniamo domenica prossima, ma col nuovo palinsesto autunnale. Olimpia cambia orario, non più la domenica alle 16:30, ma sempre la domenica alle 20:30. Quindi ci risentiamo domenica prossima, ma a partire dalle 20:30. Per scrivere alla redazione, ve lo ricordo, la mail è sempre la stessa: olimpia@radio24.it. Vi ricordo anche che potete riascoltare in podcast tutte le puntate attraverso il nostro sito web radio24.it. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.